Italia in controluce. 7 anni, 10 mesi, 9 giorni, ancora qualche ora, poi alle 20 calerà il sipario sul pontificato di Benedetto XVI, che diventerà Papa Emerito. Si ritirerà per circa 2 mesi a Castel Gandolfo per poi fare ritorno in Vaticano in un monastero di clausura. In questi minuti l'ormai tradizionale conferenza stampa di Padre Lombardi. Allora sentiamo che cosa sta dicendo Padre Lombardi. Complessiva di 3.641 oggi, di 968 testate differenti, 968 testate, 3.641 persone, 968 testate di 24 lingue diverse e di 61 ecco, nazioni. Ecco, le parole di Padre Lombardi, che starà, immagino, ricordando quante persone, quanti giornalisti da tutto il mondo stiano seguendo e seguiranno nei prossimi giorni il conclave. Questa mattina invece l'ultimo congedo di Papa Ratzinger ai cardinali. Il collegio cardinalizio, ha detto il pontefice, sia come un'orchestra in cui le diversità possano portare ad una concorde armonia. Ratzinger si è anche soffermato sull'imminente conclave. Sentiamo le sue parole. Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il Collegio Cardinale, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Ma non ci sono solo i porporati che da elettori e non sceglieranno il prossimo pontefice. C'è anche il vasto mondo dei movimenti cattolici che a suo modo farà sentire la sua voce. Allora, la nostra Katia Caramelli ha intervistato alcuni protagonisti per tracciare con loro il bilancio di questo pontificato e soprattutto guardare al prossimo conclave. Cominciamo dunque con l'intervista di Katia Caramelli a Maria Voce, presidente dei Focolari. A me sembra che ci lasci come testamento quello del primato di Dio, del primato di Dio e della fiducia assoluta che lui ha testimoniato anche nella conduzione della storia della Chiesa da parte di Dio. Insieme a questo, a questo sano ottimismo, anche una profonda gioia, al di là della tristezza che evidentemente un pochino sentiamo per la sua partenza, però profonda gioia. Lei ha sentito le parole di ieri, naturalmente, del Papa in Piazza San Pietro, questo testamento un po' spirituale, ha detto io non lascio la Chiesa, la servirò in modo diverso, non scendo dalla croce. Mi è sembrato molto importante anche il suo sottolineare che la risposta a Dio è per sempre. La chiamata di Dio implica una fedeltà di Dio ad un disegno che Egli ha su di noi, e a questo disegno non si può rinunziare, si può rinunziare ad esercitare una funzione, non al disegno di Dio. Quindi io penso che effettivamente in Lui questa cosa sia molto viva e che veramente Lui continuerà a vivere per la Chiesa come ha vissuto finora. Da domani inevitabilmente si guarderà al conclave. Come Focolari cosa vi aspettate? Noi siamo convinti che il prossimo Papa sarà quello mandato dalla Provvidenza e che quindi avrà tutte le grazie per esercitare il suo ministero. Comunque quello che desideriamo è che sia un Papa aperto al mondo, aperto a tutti i dialoghi, che sappia condurre la Chiesa in spirito di comunione con i suoi collaboratori, con una profonda spiritualità, con una profonda unione con Dio. Conterà a suo avviso l'appartenenza geografica? Non credo. Cioè io penso che il Papa attuale ha desiderato che questa geografia del conclave fosse il più ampia possibile, ma non credo che sia questo che condizionerà la scelta dei cardinali. Dalle 20, ora della sede vacante, ci sarà appunto una preghiera, una maratona di preghiera organizzata da un altro movimento cattolico, quello del rinnovamento nello spirito. Una maratona di preghiera che durerà per settimane. Salvatore Martinez è il presidente del rinnovamento nello spirito e così commenta gli anni di pontificato Ratzinger. C'è il pontificato magno di Giovanni Paolo II poneva alla Chiesa una domanda fondamentale: quale uomo oggi? Benedetto XVI ha scavato nel cuore dell'uomo e ha chiesto e ha chiesto alla Chiesa di porsi la domanda: quale fede oggi? La contemporaneità di Cristo è sfidata in molti modi e la grandezza di questo pontificato di Benedetto XVI è tutta giocata nella capacità estremamente moderna di questo pontefice di ridare attualità al Vangelo di Cristo. E lo ha fatto in modo sapiente, questo gli è riconosciuto, lo ha fatto con un tratto umile, essenziale, e questo è un tempo nel quale bisogna ritornare a dire le parole essenziali sull'uomo e su Dio, e ha proposto e iniziato una grande opera di rinnovamento interno alla Chiesa, rinnovamento spirituale che significa anche rinnovamento morale e rinnovamento strutturale, ma non è una rinuncia, e credo che le espressioni usate ieri da lui, non scendo dalla croce ma piuttosto rimango ancora aggrappato alla croce, ci deve fare pensare proprio ad un pontefice che non lascia la barca di Pietro, ma per così dire la accosta un momento, perché un papa sicuramente con maggiore vigore fisico possa continuare l'opera da lui segnata, ma questa opera è distintiva e certamente non si potrà prescindere dal pontificato di Benedetto XVI. Voi come rinnovamento avete organizzato un'iniziativa che parte proprio con la sede vacante. Ed è di fatto una risposta a ciò che il Papa ha detto nel suo ultimo messaggio di ieri. Papa si rimane sempre e per sempre, e la modalità è spirituale, per cui se si rinuncia al potere temporale non si può rinunciare a quello spirituale che viene da Dio, e questa modalità di essere pontefice è nella preghiera. Noi abbiamo pensato di accompagnare con la preghiera questo tempo di transizione e speriamo anche di salutare il nuovo pontefice in questo tempo di preghiera per 4 settimane a partire da questa sera alle ore 20, e proprio in Vaticano, nella parrocchia di Sant'Anna, ininterrottamente ogni giorno per 28 giorni ci saranno 50 differenti comunità d'Italia e quindi 52 diocesi ogni settimana che si alterneranno nella preghiera, nell'intercessione e nel ringraziamento al Signore. Che cosa vi aspettate dal prossimo ormai imminente conclave? Sicuramente una continuità con l'opera iniziata da Benedetto XVI che ha bisogno di essere proseguita. Occorre che si facciano cose nuove, ma occorre anche rifare nuove le cose di sempre. Quindi serve una continuità, ma si avverte anche il bisogno che siano messe in evidenza alcune anime di questo pontificato, e certamente non si può trascurare, in vista della nuova evangelizzazione, la soggettività ecclesiale delle famiglie, la soggettività ecclesiale dei movimenti e dei nuovi carismi che questo pontefice ha indicato come via privilegiata per il recupero dello stupore di Cristo nell'esperienza e nell'incontro che ogni giorno il Vangelo propone all'uomo di questo nostro tempo. Altro potente movimento del mondo cattolico è proprio quello dell'Azione Cattolica. Allora sentiamo ancora al microfono di Katia Caramelli il presidente Franco Miano. Questo pontificato naturalmente resterà nella storia per questo gesto conclusivo delle dimissioni e per il loro significato molto importante per la vita della Chiesa, ma resterà nella storia anche per tanti altri gesti importanti che sono stati posti nel corso di questi anni. Io credo che il Papa abbia tentato in questi anni di coniugare l'attenzione alla centralità della persona, di ogni persona, dunque la vita di ogni persona, con i valori cristiani, cioè capire che il cristianesimo, la fede, non è qualcosa di opposto alla ragione, ma anzi è qualcosa che sa coniugarsi con la ragione. Questo mi sembra un dato importante dal punto di vista teologico e di pensiero. E poi resterà, secondo me, nella storia per la sobrietà di una testimonianza. Questo Papa è stato un Papa molto sobrio, ma proprio per questo un testimone della radicalità di alcuni grandi valori, dei grandi valori del Vangelo, e questo lo ha dimostrato anche nella difficoltà. Penso a quando l'11 ottobre dello scorso anno, per i 50 anni dal Concilio Vaticano II, dall'apertura del Concilio Vaticano II, incontrando l'Azione Cattolica, ci parlò del male che pure ha attraversato questi anni anche nella vita della Chiesa, però della necessità di guardare con speranza al futuro, con una gioia umile, e questa espressione mi colpì particolarmente perché era un po' una sintesi del suo pontificato. Grazie a Katia Caramelli per aver realizzato questo approfondimento per Italia in Controluce. Vi ricordo nel pomeriggio lo speciale dedicato all'ultima giornata del pontificato di Papa Ratzinger, in onda alle 16.45, ma nel corso di tutta la programmazione nei GR, nei programmi, continueremo a seguire questa ultima giornata appunto del pontificato di Ratzinger. Maria Piera Ceci vi saluta, Italia in Controluce, e torna come sempre domani alle 13.30.